spero abbiate letto il servizio che il dorso milanese del Corriere ha dedicato domenica scorsa alla stazione centrale. 3 pagine fitte, ricche d'articoli, interviste, citazioni e quant'altro utile a dimostrare come il principale scalo ferroviario della nostra città sia, se non proprio la sentina ad ogni vizio, almeno un luogo di intollerabile degrado. Si comincia con titolo 6 colonne a pagina 45, la centrale come il Bronx, abbiamo paura, e si finisce 3 pagine dopo informando che aumentano i reati, i commercianti sono in fuga, il piano di ristrutturazione è fermo, ma si auspica con uno sforzo di positività che la centrale debba rinascere. È da un po' che i responsabili delle pagine locali del Corrierone si preoccupano della sicurezza in città e specialmente di certi luoghi tipici. Un servizio del genere è stato dedicato settimane fa a Piazza del Duomo. Per la stazione, evidentemente, si è deciso di non fare economia. Io personalmente sulla centrale non ho opinioni particolari, mi è sempre sembrata uno degli edifici più orrendi che l'architetto sia riuscito a creare, e mi è capitato di pensare passandoci che l'unico modo auspicabile di ristrutturarla consisterebbe nel radarlo al suolo, ma non sono mai andato oltre queste blande considerazioni estetiche. Ho notato sì che la fauna umana che ci si incontra è un po' diversa di quella degli eventi di moda delle prime alla Scala, ma siccome né queste né quelle sono le mie frequentazioni preferite, non me ne sono mai preoccupato più che tanto. In tutte le grandi città del mondo l'ambiente delle stazioni è per così dire un po' misto, e capita che ai viaggiatori in arrivo e in partenza si mescolino i tipi più strani. Però in fatto di sicurezza confesso che mi sono sempre sentito più tranquillo in Piazza Duca d'Aosta che dalle parti da Pennsylvania Station a New York. Devo essere sempre stato molto distratto. A pagina 46, sotto un altro titolone effetto, spaccio, furti e risse nella giungla della stazione, c'è una grande tavola in prospettiva che illustra minutamente i rischi che corrono gli onesti frequentatori. Per quanto si diano da fare gli agenti del commissariato Garibaldi della Polfer, c'è tutto un elenco di denunce e di arresti, non basta. Davanti all'Hotel Gallia leggiamo: i turisti sono truffati dai biscazzieri che intrattengono con il gioco delle 3 tavolette. All'angolo di Piazza Duca d'Aosta, a 2 passi della pensilina, c'è spaccio e ritrovo di balordi, tossicomani e alcolisti. Appena un poco più in là, alle 4:15, le prostitute nigeriane poverette prendono il primo treno della giornata per Torino. In via Napotoriani, qualche metro più a sud, le loro colleghe italiane sono in cerca di clienti. Un po' più a nord-est, nei giardinetti oltre via Vitruvio, decine di albanesi e romeni giocano a dadi con puntate da 20, 50 e 100 euro. Poco più oltre, davanti a McDonald's, c'è il punto d'incontro dei rumeni, nonché un teatro di recitazione. Verso via Ferrante a Porti si incappa in scippi e borseggi dovunque, dalla biglietteria al terminal del bus, e più in là, un poco più in là, in via San Martini e la Gay Street di Milano. Pensate che al civico numero 33 c'è persino il palazzo noto per i trans. In piazza 4 Novembre si incontrano senegalesi e nigeriani, nonché donne africane che vendono cibo e birra, e in piazza Luigi di Savoia moldave, ucraine e polacche sono in cerca di un posto di lavoro. Un po' farbacco, che scandalo, che un momento, che male c'è, a pensarci, se in piazza Luigi di Savoia moldave, ucraine e polacche cercano un posto di lavoro, o se in piazza 4 Novembre delle africane vendono cibo birra, o se dei romeni si incontrano davanti al McDonald's, o quanto a questo se in via San Martini allineano i locali gay e al civico numero 33 alloggiano i trans. Essere gay, trans, romeno, africana, moldava, ucraina, polacca, per non dire del cercare lavoro, non è stato ancora vietato per legge. O forse invece sì. Nel senso che è difficile non avere l'impressione che i compilatori di quella tavola, dopo aver elencato con scrupolo le attività delittuose che hanno luogo nei dintorni della stazione, si siano resi conto che il quadro era un po' miserello. In effetti, l'interazione tra 3 tavolette, spaccio, ricettazione spicciola, partenza di prostitute, che anche se la prostituzione fosse un reato andrebbero in ogni caso a commetterlo altrove, e scippi, borseggi e affini, non sembra connotare un paradiso del crimine tipo Las Vegas o Chicago anni 30. È il solito panorama di piccola delinquenza urbana, quella che spesso si concentra nelle zone di passaggio, le stazioni per esempio, e che da sempre i commissariati locali tengono sotto controllo. Ma se le prostitute sono nigeriane e i ricettatori romeni, le cose un po' cambiano. Aggiungiamoci la presenza di donne africane dei paesi dell'est, alcol che intenta i propri innocentissimi affari. Il quadro diventa sempre più cupo. Inseriamoci per buona misura i gay in via San Martini. Non è nemmeno tanto vicina a via San Martini, anzi è decisamente fuori tavola. E il fatto che vi si riuniscano i gay non è più significativo dal punto di vista dell'ordine pubblico della presenza di un noto ristorante di piatti di pesce. Ma chi se ne frega? Mescoliamo e rileggiamo. Gioco d'azzardo, spaccio, senegalesi, ricettatori, nigeriani, albanesi, prostitute, gay, romeni, africane, moldave, trans, ucraine, polacche. E cosa vi suggerisce l'elenco? Vi suggerisce l'impeccabile conclusione razzista per cui è da fuori, dall'Africa, dall'est Europa, che arrivano i mali che affliggono i bravi milanesi alla stazione centrale e altrove. Ma questa è soltanto un'illazione nostra, non c'è una riga nel servizio di domenica scorsa che lo affermi. Alle pagine milanesi del Corriere non sono razzisti, sono dei veri democratici, sapete, sono degli autentici liberal. Leggete pure i fondi che pubblicano sul futuro della città, il ruolo della borghesia, le nuove professioni, gli investimenti, le risorse umane, ce n'è anche uno su quel numero di Gaspare Barberini a Medeia, è tutta roba buona, tutta roba democratica. E allora che ci volete fare? Devo essere io come al solito che penso male.